come recente discendente dei Salvemini. Dovrei vegliare ma dormo tipo gli apostoli a Getsemani. Scuotimi perché tra uomini di fede vorrei collocazione. Altro che stare tra i porci come le giorne. Buttarmi a mare privo di nuoto, devoto a chi ci cammina su, piuttosto che a Belzebul. Chino sul banco stanco di sti professori. Il mio maestro stacco i pubblicani coi peccatori. Signori ci siamo pian piano, la promessa fatta da Abramo. È giunto il tempo che viviamo, inaridita mano. Guarisce anche di sabato, i miei occhi vedano. Come c'è chi a Gerico, moltiplico preghiere come pani e pesci, una miriade. Vivo nella tempesta tipo Tiberiade, Erodiade. Mi senti nell'errore nonostante i profeti decapitati per amore. Voglio stare tra gli uomini di molta fede, tra chi vede, tra chi ci crede. Solo tra gli uomini di molta fede, perché i disegni dei sapienti sono vari. Voglio stare tra gli uomini di molta fede, tra chi vede, tra chi ci crede. Solo tra gli uomini di molta fede, perché i disegni dei sapienti sono vani. Voglio molta fede io, non come un fariseo, piuttosto come il centurione a Capernao. Mi ciberò di briciole come un cane ansimante, coerente come un credente praticante. Non come le tante menti della faida, guai a te Corazin, guai a te Bethsaida. Vai da scrivi nascosti negli alibi degli abiti, perfidi vignaiuoli, figlioli per niente prodighi. Ma c'è chi si allontana e viene a bere vino a Cana, e il seme caduto sulla terra buona vuole impiegare i suoi talenti, perché il padrone arriva quando meno t'aspetti. Certi momenti senti, da pagano che sono resto buono e allerta, finché San Paolo Apostolo non mi converta. Aprendomi la porta stretta, quella delle vite misere, do a Cesare quel che è di Cesare. Ma voglio stare tra gli uomini di molta fede, tra chi vede, tra chi ci crede. Solo tra gli uomini di molta fede, perché i disegni dei sapienti sono vani. Voglio stare tra gli uomini di molta fede, tra chi vede, tra chi ci crede. Solo tra gli uomini di molta fede, perché i disegni dei sapienti sono vani. Voglio stare tra gli uomini di molta fede, tra chi vede, tra chi ci crede. Solo tra gli uomini di molta fede, perché i disegni dei sapienti sono vani. Voglio stare tra gli uomini di molta fede, tra chi vede, tra chi ci crede. Solo tra gli uomini di molta fede, perché i disegni dei sapienti sono vani. Perché i disegni dei sapienti sono vani. Perché i disegni dei sapienti sono vani. Perché i disegni dei sapienti sono vani.